nel grande mare vuoto di libertà, e brucia di rancore l'anima contro chi spacca e distrugge la verità. Solo un attimo